Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Insomma, ci si aspettava qualcosa di più rispetto a questa sentenza. Comunque credo che i giudici abbiano riconosciuto la fondatezza della nostra difesa in gran parte. Pochi minuti dopo la sentenza, la voce di Sergio Cragnotti è in bilico. In bilico tra il colpo della condanna ricevuta e la soddisfazione di pene quasi dimezzate rispetto alle richieste. 15 anni voleva per lui la Procura di Roma. Il tribunale ne ha inflitti 9 all'ex patron della Cirio, naufragata nel 2002 in un default da 1 miliardo e 125 milioni che ha travolto 35.000 risparmiatori. 9 anni dopo il crack e dopo un'intera giornata di Camera di Consiglio, lunedì scorso i giudici hanno emesso il primo verdetto sullo scandalo Cirio. Condanna dunque per Cragnotti per bancarotta fraudolenta, come per i figli e il genero. E condanna anche a 4 anni, a fronte degli 8 richiesti, per Cesare Geronzi, l'allora presidente di Banca di Roma. Sono stati assolti invece, tra gli altri, la moglie di Cragnotti e Giampiero Fiorani, l'ex numero uno della Popolare di Lodi. Resto tranquillo, ritengo di aver agito correttamente, commenta Geronzi, mentre Cragnotti legge nel verdetto la conferma alla sua tesi. Fu un sistema, dice, a provocare il fallimento. Credo che noi, per quanto ci riguarda per l'appello, abbiamo elementi fondati per il quale praticamente vogliamo continuare a far riconoscere la nostra volontà di un progetto industriale che non è andato a buon fine. In definitiva, dietro a quello che si è detto c'era un grosso progetto industriale che avrebbe portato la Cirio nel mondo attraverso la Del Monte, che evidentemente, per finalità che conosciamo di sostegno a questo progetto che sono venuti meno, ci ha creato questo grosso impasse procedurale. Quindi in definitiva all'inizio si parlava di un tesoro in qualche parte del mondo, invece credo che i giudici abbiano riconosciuto che dietro tutto questo c'è stata una grossa responsabilità di un sistema che non ha portato avanti quelle che erano le pretese dell'imprenditore. Si voleva portare l'agricoltura italiana nel mondo. Lei dice: questa sentenza oggi riconosce che fu un sistema che mandò e provocò il crack della Cirio. Certamente, l'indirizzo di questa sentenza ci dice che in parte evidentemente abbiamo dimostrato la nostra lecità dei nostri atti, che sono stati dimostrati attraverso documenti contabili, libri giornali e documenti probatori che evidentemente le cose andavano nel senso di un progetto industriale. Certo, però resta una condanna, anche se quantomeno dal punto di vista familiare registrate la assoluzione per sua moglie, anche se c'è stata la condanna anche per i suoi figli. Credo che le condanne siano state fortemente dimezzate anche per loro. Rispetto alla sua posizione, anche se dimezzata rispetto alla richiesta della procura, resta comunque una condanna. E noi speriamo in appello praticamente ci sia riconosciuta la piena lecità praticamente delle nostre operazioni. Per la gravità dei fatti, a lui e agli altri imputati non aveva voluto concedere neanche le attenuanti generiche la procura, ricostruendo ascesa e caduta di un gruppo tra pomodori, latte, ma anche calciatori, bond, esposizioni finanziarie e banche. Banche come l'allora Banca di Roma di Cesare Geronzi, trade union tra i due principali terremoti finanziari nostrani, prima la Cirio, poi la Parmalat. Due storie che si incrociano nei nomi di alcuni protagonisti, poi imputati nei processi, nei passaggi di società come l'Eurolat e soprattutto nelle cocenti conseguenze per i risparmiatori traditi. Anche se sono storie molto diverse, marcava già quasi 5 anni fa con Storiacce lo stesso Cragnotti, che così parlava della sua Cirio, dei rapporti con Geronzi e di Parmalat. Se devo vedere la mia morale, direi il mio comportamento e il mio giudizio di imprenditore, senza dubbio mi ritengo innocente per il modo col quale si stava lavorando, cioè in definitiva si stava lavorando a un grande progetto agroalimentare, avendo acquisito una grande marca che era la marca Del Monte, che permetteva ai prodotti agricoli italiani di poter sconfinare dal proprio territorio e andare a invadere paesi internazionali e quindi nuovi mercati. quando improvvisamente una forse erronea, ecco lì, valutazione dell'imprenditore si è andato a cadere in un default, quando poi chi doveva assistere in quel momento il mondo dell'impresa non lo ha fatto e quindi ha chiesto la liquidazione del gruppo stesso. Mi sembra che sia stato tutto paradossale per quello che è successo, quindi ecco perché mi ritengo innocente, perché effettivamente stavo lavorando nella piena tranquillità, nella capacità dei mezzi, di professionalità e di capacità di intendere se questo o quella situazione poteva essere critica per la conduzione del gruppo, e siccome tutte le aziende stavano operando normalmente, perché anzi avevano un margine operativo lordo in crescendo, ecco, la mia moralità mi dice che in quel momento assolutamente non ero colpevole di quanto poi è successo. Quindi l'unico errore che lei si imputa è quello di una superficialità d'analisi, per dirla con le sue stesse parole? Forse aver creduto che altri stessero seguendo con attenzione la crescita del progetto, quando questo poi non era vero ed è avvenuto, diciamo, quella mancanza di pagamento, quel mancato rispetto all'obbligo di saldare quel prestito obbligazionario, quando praticamente c'era tutto un patrimonio che poteva assolutamente garantire quell'obbligazione. Quando dice altri, parla delle banche? Senza dubbio è il mondo finanziario, cioè il mondo delle banche, che evidentemente era a perfetta conoscenza del progetto industriale e a questo progetto aveva pensato di trovare questo strumento finanziario che era il famoso bond, che poi le banche stesse hanno ricollocato sul mercato dei capitali. Ecco, però l'accusa nei suoi confronti è quella di bancarotta fraudolenta, cioè praticamente la si accusa di essere stato a conoscenza, diciamo, della situazione del default del gruppo e quindi di aver emesso il bond per coprire il buco. Come forse poi dimostreremo, vedremo che assolutamente non c'era una fraudolenta, chiamiamo, consapevolezza che il gruppo stesse in condizioni disastrose e quindi avesse emesso questi bond soltanto per coprire delle forti perdite. Questo assolutamente non risulta nei bilanci, non risulta da un'analisi patrimoniale, e che in definitiva tutti i finanziamenti che sono stati fatti e che vengono giudicati come una distrazione sia alle società collegate sia alle società dipendenti, queste sono finanziamenti all'interno di un gruppo che in definitiva si opera in un gruppo consolidato, si opera così in tutte le parti del mondo. Si parla di 150 milioni di euro. Diciamo, la cifra non è ben definita. Ecco, su un numero però non vi è dubbio che sono i 35.000 risparmiatori. È un rammarico grossissimo. Questo è successo in un modo talmente imprevisto, quando in 40 anni di vita professionale credo che noi abbiamo sempre adempiuto ai nostri obblighi, e quello che è successo in un modo imprevisto, evidentemente causato non da nostre ragioni ma da ragioni di altri, e quindi che in definitiva dovranno rispondere anche insieme a noi su questa in adempimento, diciamo, verso il mercato delle persone, e vedremo poi di chi sarà veramente la responsabilità, ecco. Ma senza dubbio questo mi rattrista moltissimo, non è che ne sono assolutamente incosciente o superficiale, no, assolutamente, questo è la parte negativa di tutto quello che è successo. Sentendo le sue parole mi sono ritornate in mente le frasi di Callisto Tanzi in aula al processo a Milano. Senza dubbio anche il cavalier Tanzi avrà le sue ragioni e le sue discolpe, ecco, in sostanza, però in definitiva si è distrutto un mercato dei capitali che era una valvola di sicurezza per il mondo dell'impresa e per il mondo imprenditoriale, quindi di questo io credo che qualcuno ne debba rispondere, perché in definitiva oggi non c'è più sicurezza di mercato nella sottoscrizione di obbligazioni per il mondo dell'impresa. Ecco, però crack Cirio, crack Parmalat sono state due batoste, chiamiamola così, per il mondo dei risparmiatori italiani. Lei oggi ad un risparmiatore se la sentirebbe di dire di credere ancora in questo tipo di investimento? Molte volte si fa la similitudine tra il crack Cirio e il crack Parmalat. Io credo che queste sono due situazioni totalmente differenti per come sono avvenute e come si sono verificate nel mercato. Forse le similitudini nascono anche dal fatto che sia voi che la Parmalat puntate il dito contro le banche. Forse sì, per chi per una ragione e chi per un'altra, però le ragioni non credo che siano le stesse. Perché noi in definitiva abbiamo venduto le nostre obbligazioni alle banche che le hanno sottoscritto e credo che qui ci si trovi d'accordo anche con i periti dei pubblici ministeri che sottolineano nelle loro relazioni che queste obbligazioni non potevano essere sottoscritte da altri investitori se non investitori istituzionali e quindi banche, entità finanziarie eccetera. Poi successivamente però le banche queste obbligazioni le hanno riversate sul mercato e adesso qualcuno può anche domandare: ma tu non conoscevi che poi queste obbligazioni venivano rigirate al mercato? Bene, io non potevo entrare nel merito con quale altro strumento o meccanismo finanziario queste obbligazioni andavano al mercato. È qui la differenza. Quindi il nostro debitore principale non è stato mai il mercato, ma sono state le istituzioni bancarie. Questa è una differenza enorme, direi, su quale veramente non ci confondiamo con Parmalat. Quando si parla di banche, nel suo caso è soprattutto una, Capitalia, ad essere chiamata in causa, con una nota tempo fa diciamo respinse le accuse attribuendo, diciamo così, l'insolvenza del gruppo alla inesigibilità dei crediti che erano stimati in circa 5,7 volte il patrimonio netto del gruppo Cirio Finanziaria, scriveva Capitalia all'epoca. Come la prende? Ma io credo che praticamente le storie delle nostre relazioni con l'Istituto Capitalia sono di diversa natura. Per quanto riguarda i bond, diciamo che le aziende che hanno sottoscritto, diciamo leader che hanno sottoscritto questi prestiti obbligazionari erano diverse, non c'era soltanto Capitalia, ma c'erano le più importanti, diciamo, banche italiane che rappresentavano il consorzio di collocamento e quindi per quanto riguarda i bond. Poi per quanto riguarda Capitalia invece per altri rapporti commerciali, siccome si sono fatte delle altre operazioni, ecco qui che c'è un giudizio che evidentemente Capitalia conoscesse lo stato di insolvenza del gruppo e quindi cercava di convertire poi i suoi crediti con la liquidità di questi bond. Come sempre vi ricordo che potrete riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, sul sito radio24.it e scaricarle anche in podcast. Ci ritrovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul nostro audioblog. Ciao a tutti, a sabato!